Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non ne posso più di persone che si lamentano del caldo. Non ne posso più di persone che dicono che non ha mai fatto caldo come caldo in questi giorni. Non è vero, è sempre stato caldo. Ricordo giornate caldissime, giornate torride, giornate in cui si stava rinchiusi dentro casa con la sola luce che filtrava dalle fessure delle persiane. E l'unica maniera per avere il refrigerio era quello di bagnarsi continuamente. Non è che c'erano le docce come adesso, che accendevi e scendeva la doccia. No, i bagni erano molto più arcaici. L'acqua si prendeva dal lavandino, l'acqua serviva soltanto per umettarsi la fronte, umettarsi i polsi, e poi si ritornava nuovamente nelle stanze affocate delle case. Oggi abbiamo una grossa possibilità, una grossa chance comunque di avere case che sono dei luoghi paradisiaci, di avere uffici che sono luoghi paradisiaci, di avere fantastici centri commerciali in cui uno può vivere come se vivesse nel paese delle meraviglie. Perché? Perché è stata inventata l'aria condizionata. So che questa mia affermazione mi creerà montagne di nemici, perché la criofobia, cioè il terrore per l'aria condizionata, è una sorta di religione che attraversa gran parte della popolazione, soprattutto quella femminile. Sì, in questo caso bisogna dirgli che noi criofili, cioè noi amanti dell'aria condizionata, ci troviamo a dover rivendicare comunque il fatto che il nostro genere, in quanto maschile, ci dà una pelle più spessa, una sensibilità meno accentuata, quindi possiamo sopportare meglio il freddo. Però dobbiamo sopportare le nostre colleghe, le nostre compagne, le nostre amiche che si mettono il golfino, che si mettono la copertina, che si nascondono negli angoli fuori dalla gettata del condizionatore, perché ci dicono che in realtà noi stiamo attentando alla nostra salute. Poi simulano che non riescono a respirare, soffocano, l'aria è consumata. Ma quale consumata? Il condizionatore serve apposta a prendere aria da fuori, ghiacciarla e farla rientrare dentro, e vogliono sentire l'aria fresca, l'aria pulita, e aprono le finestre, e fuori magari c'è una strada affollata, c'è il caldo delle pattumiere, ci sono le persone che emanano calore, ci sono i motori del condizionatore che emanano calore. Beh, io di tutta questa battaglia tra criofobia e criofilia ogni anno confeziono una trasmissione, e siccome sono molto poco obiettivo da questo punto di vista, ve la ripropongo e ve la beccate. Gianluca, abbasso l'aria condizionata, abbasso, fa ammalare tutti, ci sta meglio senza. Allora, il problema dell'aria condizionata è che le donne hanno più freddo degli uomini, semplice. Quindi quello che per te è fresco, per loro è gelo. E quello che per te è un po' di caldo, per loro è stiamo bene così. Se tu gli accendi l'aria condizionata, le fai ammalare, le fai star male, raffreddori, sinusite. Per loro non vogliono ammalarsi, hanno ragione. L'equilibrio sta nel tu ti devi vestire più leggero, e loro magari mettere la mezza manica quando tu metti la canottiera. Ecco. O la manica lunga quando tu metti la mezza manica, perché in certi ambienti mi capisci che non è che si può mettere la canottiera. È tutto lì, l'aria condizionata va dosata, gli uomini hanno tendenza a tenerla sparata, troppo alta, esagerata, perché hanno il picco di calore, e invece bisogna imparare a regolarla, anche per il risparmio energetico. Ci siamo. Non potevo fare a meno di fare questa trasmissione che mi accompagna fedele per ogni cambio di stagione tra primavera e estate, che più o meno nelle latitudini in cui mi produco a questo microfono avviene in questo periodo, fine maggio, inizio giugno. Normalmente dovrebbe essere primavera, ma qui è già estate. Da cosa si capisce che è estate? Da due cose. Primo, iniziano con le notizie interstiziali nei telegiornali dedicate al caldo. Mi raccomando, inizia ogni anno, poi adesso c'è un anticiclone che porterà il caldo, adesso non mi ricordo come si chiama quello di quest'anno, sempre nomi fantasiosissimi. E inizia e cominciamo le categorie deboli da proteggere. Mi raccomando, nelle ore di maggior calore state all'ombra, state a casa, bevete molta acqua. Ma mi sembrerebbe paradossale dire nelle ore di molto calore mettetevi in piazza sotto il sole cocente e bevetevi, che ne so, vin brûlé o cose del genere. No, non è possibile. No, vabbè. Ma lateralmente a questa protezione delle categorie deboli, che sono gli anziani e i bambini che non stare al fresco, infatti vanno in giro per centri commerciali a godersi l'aria condizionata, inizia la guerra dei condizionatori. Iniziava fino a qualche anno fa soprattutto nei luoghi di lavoro, negli uffici, oggi anche nelle case, visto che la maggior parte delle abitazioni è dotata, grazie a Dio, di condizionatori. Le categorie sono due, non so se le ricordate, sono i criofili e i criofobi. Il criofilo